Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera prendiamo spunto da un convegno che si svolgerà qui al Sole 24 Ore il prossimo lunedì 9. Parliamo del Summit Green Mobility e Sviluppo Urbano Sostenibile, dove si parlerà di auto elettrica, di logistica e anche di pianificazione urbana. Un dato infatti diventa sempre più evidente: la sostenibilità energetica e ambientale è un po' come una di quelle immagini frattali in cui voi continuate a zoomare e i dettagli che emergono man mano riproducono sempre più in piccolo le stesse forme e gli stessi disegni. Cosa voglio dire con questo, con questa metafora forse un po' complicata? Che la sostenibilità è tale se è realizzata a tutti i livelli. Un singolo edificio, per esempio, può essere molto efficiente, ma se si trova lontano da tutti i servizi comporterà un consumo molto elevato di carburante da parte dei suoi abitanti. Allora ci chiediamo: possiamo davvero considerare efficiente questo edificio? È del tutto evidente che la risposta è no, e che la risposta invece a situazioni di questo tipo, ci sono casi concreti di questo genere, non è un esempio astratto, non può che essere di tipo urbanistico. Ne parliamo allora con uno dei relatori che appunto interverrà al summit, Leopoldo Emilio Freri, presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Buonasera Freri. Buonasera Melis. Ma lei è un nobile, è un nome complicato, un titolo complicatissimo. No, non è eretico. Va bene, addirittura. Allora, senta, allora Freri, è un problema di complessità questo dell'efficienza energetica, o meglio della nostra capacità di confrontarci in fase progettuale, anzitutto con la complessità. È questo un po' il punto, vero? Assolutamente sì. Non esiste una soluzione, non esiste la bacchetta magica, esiste la capacità di dare diverse soluzioni ai diversi elementi, ma tenendole tutte in un quadro sintetico. Diciamo, gli ingredienti che devono essere presenti quali sono? Gli ingredienti sono molteplici, perché si va dal modo di disegnare gli edifici o gli spazi pubblici, ai materiali che si usano, agli impianti che si introducono e anche ai modi di vita, evidentemente. E poi voglio dire, il riflesso è su tanti aspetti. Per esempio, non si può pensare di progettare l'efficienza energetica degli edifici e dimenticarsi della mobilità, oppure della sicurezza, no? Sono tutti, lei mi diceva ieri quando ci siamo sentiti, che o si riesce a mettere insieme tutti questi temi in uno stesso progetto, oppure meglio lasciar perdere, no? Assolutamente sì, l'esempio classico è quello del patrimonio edilizio italiano degli anni dal dopoguerra fino agli anni Ottanta, sul quale dal punto di vista energetico si sta lavorando, ma si mettono delle pezze, perché spesso questi edifici si rendono efficienti da un punto di vista energetico, ma non rispondono alle norme sismiche, per esempio. Ecco, qua ci scontriamo tra l'altro con la difficoltà di demolire in questo paese. Purtroppo sì, è una questione culturale molto profonda, che però bisogna affrontare rapidamente, perché si confonde la salvaguardia dei beni architettonici con una salvaguardia tout court di qualunque edificio. Di qualunque edificio, che dovrebbe invece avere una vita limitata, vero? Quanto dovrebbe durare un edificio? Beh, mediamente la durata di un edificio tradizionale degli anni 70 è 50 anni, per cui in realtà stiamo arrivando alla fine. Ecco, senta, ma secondo lei è realistico però intervenire? Cioè, possiamo in questo paese demolire degli interi quartieri per poi ricostruirli? Troviamo dei cittadini che sono disponibili a questo tipo di operazioni? Secondo me sì, nel senso che si può fare un progetto, bisognerebbe fare, e noi proporremo di fare un progetto a lunga durata per il paese, proprio in questo senso, messe alcune bandierine come smettere di consumare suolo, con metodologie e con strumenti come la perequazione, si può anche dimostrare, dimostreremo che sarebbe economicamente vantaggioso. L'esempio classico è quello che il consumo degli edifici attuali vale la produzione di 8 centrali nucleari. Senta, da cosa si potrebbe partire? Non lo so, da un programma di housing sociale? Come si fa a fondare il bisturi dentro e non a procedere per piccoli aggiustamenti? C'è un modo? Sì, con un progetto condiviso, che non è un progetto degli architetti, deve essere un progetto di tutto il paese, che poi procede per fasi, per pezzi. Se non abbiamo un obiettivo chiaro, verrebbe da dire una visione. Una visione, sì, ma una visione pragmatica, però non utopistica. C'è qualche esempio invece in giro di quartieri, di città che sono nate in qualche modo secondo questi criteri, questo mix di criteri di cui stiamo parlando? Sì, l'esempio classico è Solar City, questa città vicino a Linz, è una new town che avrà alla fine circa 30.000 abitanti. Mm. E che è stata ideata proprio con questo obiettivo, cioè di una sostenibilità assoluta di tipo energetico, di tipo ambientale e una qualità della vita più alta. C'è qualche accorgimento in particolare che è stato preso, magari da cui si può pigliare spunto? Sono tantissimi, lì si pratica l'energia solare, l'energia eolica, ci sono accorgimenti progettuali statici per ridurre il consumo energetico, si usano auto elettriche, sono tantissimi gli elementi. Una cosa, come dire, curiosa ma assolutamente utile è che c'è un sistema di raccolta pneumatica di rifiuti, per cui in realtà metto la mia spazzatura differenziata in tubi che pneumaticamente, per cui senza consumo con pochissimo consumo di energia e nessuna emissione, vanno direttamente o al termovalorizzatore o alla raccolta differenziata. E tra l'altro così ci si risparmia anche il camion dei rifiuti, come dire, sulla strada, no? Esatto. Che non fa, esatto, che blocca il traffico. I problemi igienici connessi, di cui spesso ci dimentichiamo quando vediamo i sacchi. No, a Napoli probabilmente non ce lo dimentichiamo. No, temo anch'io che ce lo ricorderemo a lungo e speriamo, aggiungo, di ricordarcelo, di non dimenticarci troppo presto, esatto, tra l'altro, di quello che è accaduto a Napoli. Grazie Fréry. Grazie, arrivederci e saluti a tutti i suoi ascoltatori. Bene, l'appuntamento è per domani. Parleremo della scarsa affidabilità della certificazione energetica degli edifici. Buona serata a tutti.